Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Strade e Motori, il presente ed il futuro dell'auto al centro della puntata di questa settimana. Non possiamo infatti che partire dalla fine del Salone dell'Auto di Ginevra, che chiude i battenti proprio oggi, ed è anche l'occasione per fare un pochino un bilancio sull'evento che, ricordiamo, resta comunque il più importante per il settore auto in Europa. Avremo poi un focus sul futuro di Fiat, soprattutto per quanto riguarda gli stabilimenti italiani, con le ricadute sul mondo del lavoro che conosciamo. Tanti ascoltatori poi ci hanno chiesto di affrontare il tema dei corsi di guida sicura. Ce ne sono tantissimi, disseminati un po' in tutta Italia. Cercheremo di darvi qualche consiglio utile per scegliere quello che fa per voi. Così come qualche consiglio, speriamo utile, vi daremo per vendere o acquistare un'auto usata online su internet. Insomma, puntata ricca che apriamo parlando di mercato. Si conclude oggi a Ginevra un salone dell'auto con tinte un po' in chiaroscuro. I dati del 2009 sicuramente positivi, che si scontrano con previsioni per il 2010 più fosche, il tutto con più di un occhio all'ecologia e ai risparmi, con case come Audi perfino che puntano decise sulle medio-piccole, ed è tutto dire. Ma dove va il mercato in questo 2010? Lo chiediamo a Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti ed analista del Sole 24 Ore. Buongiorno professore Malagodi, grazie per essere con noi. Buongiorno Massimo. Ma la situazione del mercato italiano è quella che gli ascoltatori di Strade Motori conoscono e leggono da numeri che, al di là delle immatricolazioni di gennaio e febbraio, che sono ancora con un buon livello, perché sono figlie di un portafoglio ordini che è rimasto inevaso al 31 dicembre 2009 per la facoltà di chi ha ordinato la vettura entro quella data, lo ricordiamo, di poter avere immatricolata la vettura ordinata con gli ecoincentivi entro il 31 marzo, quindi anche a marzo avremo una coda di questi ordini. La base invece degli ordini del 2010 è a un livello catastrofico, cioè noi scontiamo degli ordini che normalmente sono superiori ai 200.000 sia in gennaio che in febbraio, li abbiamo a livello delle 125-140.000 di questo febbraio, ed è una proiezione che sulla base degli ordini fa pensare a un mercato potenziale di 1.450.000, a cui se aggiungiamo 250.000 di riporto positivo dal 2009, porta un mercato da 1.700.000, quindi questa è la triste considerazione di oggi rispetto ai 2.150.000 dell'anno scorso, o a 2 milioni come anno non buono, ma comunque in regime di sufficiente sostegno alle reti e alla capacità produttiva delle case, cosa che non c'è a 1.700.000. Questo momento che lei ha definito drammatico, sostanzialmente, ne ricorda altri che si sono già verificati nel passato, e se sì, come da quei momenti si è usciti? Non a questo livello, perché ricordiamo ad esempio lo shock petrolifero di inizio anni 70, che si è risolto in primavera, si è esaurito nell'autunno con una serie di domeniche a piedi, di circolazione a targhe alterne, con situazioni abbastanza folcloristiche, però il petrolio è ritornato sui mercati, si è ristabilita una attenzione degli utenti all'uso dell'automobile, al consumo dell'automobile, così abbiamo avuto anche delle crisi dell'economia italiana a metà degli anni 90, però in quella situazione dopo circa un anno il flusso di maggiori esportazioni ha ristabilito un trend economico positivo. Questo 2010 che segue al 2009, ma allora la situazione è stata sostenuta dagli incentivi statali alla rottamazione e all'acquisto di vetture a basso impatto ambientale, è invece un anno di un periodo lungo di crisi, una crisi almeno quinquennale di portata mondiale, e quindi non è risolvibile dall'interno del settore dell'auto se non con sostegni particolari che, se non saranno quelli alla rottamazione, mi auguro ritornino ad essere quelli all'acquisto di vetture a basso impatto ambientale, CPL metano, perché in quella fase noi ci siamo inseriti dal 2007 con sostegni agli acquisti di queste vetture, e la interrompiamo in un 2010 che, oltre a essere pesante per il mercato, rischia di avere effetti negativi sulla scelta dei clienti, non più su vetture a basso impatto ambientale sostenute dallo Stato per il loro maggior costo, impianto GPL metano, e quindi avremo un deterioramento, secondo me, della qualità della domanda. Professore, per concludere, l'auto del 2010 e degli anni a seguire continuerà ad essere piccola e maneggevole piuttosto che, come invece accadeva negli anni scorsi, magari un po' più grande e un po' più comoda? Cioè quello che gli esperti del settore chiamano downsizing, è un processo irreversibile secondo lei o no? Beh, ha tante sfumature, certamente quella di avere motori meglio efficienti, sia benzina, iniezione diretta, multierne, è una dimostrazione ancora più innovativa, i diesel che hanno oggi dei livelli di potenza e di efficienza che sono descritti da BMW come quelli di una gamma rispettosa dell'ambiente, come di Audi, eccetera, sono sotto gli occhi di tutti. Quello che è ancora un passo da fare è quello di orientare la domanda, ma è un processo lungo, non immediato, verso modelli veramente non di nicchia come la Prius o altri, ma di diffusione ampia che saranno ibridi o addirittura elettrici. Ci sono delle tendenze molto precise che si sono viste a Ginevra, un po' in giro nelle varie case. Mi piace di citare Giorgetto Giugiaro e la sua Ital Design, che su questa linea procede con dei suoi prototipi. Quest'anno ne è esposto uno a Ginevra, quella che è chiamata EMAS, che in 3,5 metri ha un'ingegnosa soluzione con un motore termico davanti, un motore elettrico dietro con sotto le batterie al litio, e queste sono soluzioni che soltanto dei progettisti di estrema qualità riescono a individuare. Noi ringraziamo Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore, per il suo contributo. Professore, ci risentiamo presto sempre qui a Strade Motori. Buona domenica e grazie ancora. Il piacere sarà mio, a risentirci. Sono arrivate tante mail al nostro indirizzo stradeemotori@radio24.it che ci chiedono di approfondire un tema, quello dei corsi di guida sicura. Una volta destinati soltanto ai professionisti dell'auto, oggi invece che si rivolgono ad un pubblico sicuramente molto più vasto. Per parlare insieme di questo argomento ci colleghiamo con l'autodromo di Vallelunga, nei pressi di Roma, e perché abbiamo in collegamento Danilo Spizzuoco, che è responsabile della divisione guida sicura di ACI Vallelunga. Buongiorno Spizzuoco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, come scegliere un corso di guida sicura che sia sicuro, che sia affidabile? Che consiglio può dare ai nostri ascoltatori, Spizzuoco? Allora, intanto la domanda, la ringrazio molto per questa domanda, perché sul mercato ci sono molti prodotti e in un mercato non regolamentato ancora, e quindi è importante scegliere un prodotto di qualità. In particolare ci sono, noi lavoriamo nel nostro impianto, abbiamo realizzato un impianto specificamente per fare questo tipo di formazione, così come avviene in Europa, ed è lo standard che noi abbiamo ritenuto idoneo, al quale bisogna appunto adeguarsi, in quanto operare fuori da questo tipo di impianti, oltre a essere meno sicuro, c'è la possibilità di che i partecipanti ricevano dei messaggi leggermente distorti. È importantissimo che da un corso di guida sicura non si esca con la convinzione di essere diventati più bravi a guidare e in questo modo anche meno sicuri dal nostro punto di vista. Quanto dura e cosa si fa allora praticamente in un corso di guida sicura? Allora, i nostri corsi durano tutti una giornata solamente, proprio perché la funzione del corso per noi non deve essere quella di dare maggiore sicurezza e quindi trasferire all'allievo la consapevolezza di essere diventato più bravo, ma semplicemente consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità e maggiore conoscenza di quelli che sono i sistemi di sicurezza di cui sono dotati i veicoli e delle situazioni di pericolo che possono presentarsi nella guida di tutti i giorni. Ecco, in una sola giornata siamo certi di poter ottenere questo primo risultato, e poi suggeriamo di frequentare periodicamente, diciamo una volta l'anno, nuovamente il corso. Così come quando si apprende una nuova disciplina sportiva, ad esempio lo sci, si inizia facendo una prima giornata, una prima settimana, e poi una volta l'anno si ritorna a frequentare un corso di formazione diventando sempre un po' più bravi. E anche nella guida il percorso è identico, bisogna acquisire degli automatismi di reazione, e per generare questi automatismi bisogna passare attraverso l'esercizio. Quanto è importante realizzare questi esercizi in condizioni di guida, diciamo così, complicate, ad esempio sul bagnato, sulla neve, vista anche la stagione e il clima che sta portando? Ecco, è un altro elemento da considerare questo? È fondamentale questo, quindi confrontarsi con tutte le situazioni, diciamo, di guida critica che possono presentarsi, quindi una frenata sul bagnato è assolutamente diversa da una frenata sull'asciutto, e per quanto possa sembrare banale l'affermazione, l'esperienza che noi abbiamo acquisito con tutti i corsi fatti fino ad oggi ci fa capire che effettivamente invece è necessario passare per l'esperienza concreta e quindi confrontarsi con le proprie capacità e quindi vedere che cosa si è in grado di fare in quella situazione. Spizzuoco, per concludere, non mi dica che lo consiglia a tutti, perché è una risposta troppo generale, però a chi consiglia in effetti un corso di guida sicura? Ad esempio un giovane neopatentato, persone che magari non guidano tantissimo durante l'anno e che hanno, come dire, voglia anche di rimettersi un pochino al volante nella maniera giusta. Ah, invece chi ha tanti chilometri sulle spalle sue e della propria auto, insomma, chi è il vostro e in generale il cliente tipo del corso di guida sicura? Allora, ahimè, il nostro cliente tipo è il cliente che usa il mezzo per motivi di lavoro e quindi l'utenza aziendale, che anche per motivi normativi oggi è più attenta a questi temi, ma così come diceva lei prima, è un corso che dovrebbero frequentare sicuramente i neopatentati per iniziare una carriera di guidatore, diciamo, con tutti gli strumenti a loro vantaggio, ma poi ovviamente dovrebbe essere un percorso fatto da tutti. Le dico una cosa: in Austria questi corsi sono obbligatori dal 2003 e dal 2003 ad oggi hanno ridotto del 33% il coinvolgimento dei neopatentati negli incidenti stradali, il che significa che questi corsi hanno sicuramente influito positivamente sulla riduzione degli incidenti. Vedremo se anche in Italia si arriverà a questi livelli, come dire, di attenzione nei confronti del fenomeno anche attraverso strumenti come i corsi di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. Grazie a Danilo Spizzuoco, responsabile della divisione guida sicura di ACI Vallelunga, grazie per il suo contributo e buona domenica, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Strade e motori. Strade e motori. Di nuovo insieme per la seconda parte di Strade e Motori, adesso il consueto spazio dedicato alle notizie della settimana del mondo in movimento, poi parliamo del futuro di Fiat e di come vendere o acquistare un'auto su internet senza rischiare. La crisi non risparmia le auto di lusso. Rispetto all'anno precedente, la Lamborghini infatti ha chiuso il 2009 con un calo del fatturato del 41,3% e delle vendite del 37,7%. Nonostante il periodo difficile, però, lo storico marchio emiliano ha aumentato del 32% rispetto al 2008 gli investimenti in ricerca e sviluppo. Gli automobilisti pagano 171 euro in più all'anno per i rincari della benzina. È la stima di Adusbef e Federconsumatori, secondo cui sono ingiustificati gli aumenti del prezzo dei carburanti di 9-10 centesimi al litro in un mese. Si tratta di speculazioni, sostengono le associazioni dei consumatori, che ricadono sugli automobilisti. Parte per il 10° anno il progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale rivolta ai più giovani e promossa da Polizia, Ministero dell'Istruzione, Fondazione ANIA, MOIGE e UNICEF. Dopo Milano, Mantova e Genova, la campagna toccherà altri 8 capoluoghi italiani. Gli incidenti stradali restano la prima causa di morte per gli under 30 nel nostro paese. Oltre 5 miliardi di dollari è quanto costerà a Toyota, secondo la stima del Wall Street Journal, la campagna di richiami in tutto il mondo per il difetto al pedale dell'acceleratore di alcuni suoi modelli. La cifra include anche le operazioni di marketing necessarie per rilanciare l'appannata immagine del marchio. Tra meno di un mese Fiat presenterà il suo piano strategico, una sorta di manifesto per il futuro che dovrà dirci quale sarà il rapporto con Chrysler, per esempio, che destino attende gli stabilimenti italiani, su tutti quello di Termini Imerese, su cui c'è da settimane un bel cartello "vendesi", e se e come Marchionne intende puntare su marchi storici come Alfa e Lancia. Ma tra tutti i temi aleggia una domanda che peraltro il direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini ha ben colto sul suo blog che c'è online sul sito quattroruote.it. C'è spazio per l'Italia nel futuro di questa Fiat che va delineandosi? E allora chi meglio proprio di Mauro Tedeschini può cominciare a effettuare un'analisi sull'argomento? Direttore, buona domenica, ben trovato. Buona domenica a voi. Insomma, Marchionne ha detto il Brasile sarà la nostra seconda casa, ma non si capisce quale sarà la prima, se saranno gli Stati Uniti o l'Italia. È questo che scrive lei sul blog, giusto? Infatti, io sono partito proprio da questa battuta di Marchionne, che ovviamente è un riconoscimento per quanto il mercato brasiliano è importante per la Fiat e quindi il Brasile è la nostra seconda casa. Io mi sono chiesto qual è la prima, perché effettivamente il ruolo dell'Italia nel corso degli ultimi anni si è sempre un pochettino più annacquato. Questo è normale perché la Fiat ha deciso a un certo punto di diventare un costruttore globale, lo ha deciso nel momento in cui ha accettato la sfida della Chrysler, e quindi ci si chiede se la prima casa appunto sarà Torino o sarà Detroit o sarà chissà dove. Devo dire che negli ultimi tempi insomma qualche segnale anche di attenzione all'Italia c'è stato. Per esempio, io considero molto importante il fatto che la produzione della Panda, che era stata portata in Polonia nel 2003, dovrebbe nel 2012 tornare in Italia, per la precisione a Pomigliano d'Arco, quindi a Napoli. Siccome questa è una delle macchine più vendute ed è uno dei successi più sicuri anche per il futuro del gruppo Fiat, credo che questo sia un punto importante. Però è anche vero che ormai la Fiat, quando pensa a una gamma di modelli, quando pensa per esempio a una generazione futura di macchine come quella che verrà presentata appunto il 21 di aprile da Marchionne, sicuramente non ha più in testa il mercato italiano come una priorità, ma in testa altre situazioni. E su queste credo che per esempio appunto gli Stati Uniti e il Brasile saranno forse anche più importanti di quanto sarà l'Italia. Direttore, ma non è che, come cantava Venditti qualche anno fa, è una questione politica? Cioè che la Fiat si trovi meglio con il governo Obama che con il governo Berlusconi? Questo è sicuro. Marchionne l'ha detto abbastanza chiaramente. Credo che l'ultima vicenda degli incentivi abbia dimostrato che non c'è poi questo grandissimo feeling fra la Fiat e il nostro governo, e questo nasce secondo me da un equivoco di fondo, ovvero che da una parte il governo pensa di avere delle buone ragioni per esigere dalla Fiat un trattamento preferenziale, visto tutti gli aiuti che il più grande gruppo industriale italiano ha avuto negli ultimi decenni, dall'altra invece la Fiat pensa che debba essere il governo ad aiutare questo grande gruppo industriale. E comunque soprattutto Sergio Marchionne, ma anche la prima fila di manager della Fiat, che ormai è composta in prevalenza da stranieri, e anche questo è normale devo dire, non ha assolutamente questo baricentro su Torino o su Roma e ragiona in termini completamente diversi. Quindi la vicenda appunto dei Termini Imerese da questo punto di vista è abbastanza paradigmatica, nel senso che il cartello direi non vendesi ma regalasi, no? È stato messo proprio perché la Fiat ritiene che uno stabilimento che era nato per delle questioni di opportunità anche politiche a questo punto non abbia più senso di esistere, e mentre appunto il governo ritiene un grande affronto il fatto che si liquidi Termini Imerese, la Fiat ritiene un grande regalo il fatto che si porti la Panda a Pomigliano. Quindi sono proprio due diciamo coniugi che sono andati avanti per molti anni per reciproca convenienza, ma che adesso questa convenienza non la trovano più e quindi non perdono occasione per mandarsi reciprocamente a quel paese. Lei citava la Panda, a proposito di Panda, sono 30 anni quest'anno e si festeggia l'anniversario, il compleanno proprio in questi giorni, che esiste il marchio Panda, che in fondo può essere considerata, no, un pochino la mamma di tutte le city car, almeno dal punto di vista, come dire, dell'auto moderna quale la si intende oggi. Non è forse il momento migliore per festeggiare questo anniversario? L'Italia potrà continuare a produrre city car come la Panda, come la vecchia la Panda, come la nuova Panda, che è comunque un modello che tira ancora, secondo lei? Ma io penso di sì, penso che per Pomigliano questa sia una grandissima occasione, anche se mi rendo conto che perdere l'Alfa Romeo può essere un trauma, ma questa è una polizza per il futuro, secondo me, molto più sicura appunto dell'Alfa Romeo. Io credo che sia giusto festeggiare la Panda perché in realtà poi è l'unico modello italiano che è leader di mercato in Europa nel suo segmento ovviamente da moltissimi anni e penso che lo continuerà ad essere, cosa che nel mondo dell'auto succede poco spesso perché adesso ci si stanca molto in fretta delle forme e quindi novità scaccia appunto altra macchina vecchia, in questo caso invece la Panda continua a scacciare novità e ad aumentare tutti gli anni il numero delle macchine vendute, si vede che dentro c'è qualcosa che funziona e che convince. Allora tanti auguri Panda, sperando che i prossimi 30 anni possano essere felici come i primi 30. Grazie a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, appuntamento grazie in edicola, ovviamente è con noi la settimana prossima a Strade Motori. Buona domenica, grazie a voi. E allora, gli italiani si fidano o no ad acquistare un'auto nuova usata che sia su internet? Salutiamo il nostro ospite, Riccardo Mittiga, country manager per l'Italia del sito automobile.it. Grazie per essere con noi, buona domenica. Buona domenica a lei. Allora, ci aiuti subito a rispondere alla domanda iniziale. Rispetto agli altri paesi, gli italiani si fidano o no ad acquistare l'auto su internet? Gli italiani sicuramente vanno molto su internet, direi quindi che in buona sostanza si stanno fidando. Si rivolgono a internet per la ricerca, per prendere informazioni. Poi la maggior parte degli acquisti avviene chiaramente offline, quindi vanno dai concessionari oppure dai privati che vendono le auto. Come scegliere un'auto, senza prendere fregature, una buona auto usata su internet, Mittiga? Innanzitutto puntare a quegli annunci che sono fatti meglio, quegli annunci dove ci sono le foto, dove la descrizione è lunga a sufficienza, il che denota che un venditore ha impiegato del tempo e quindi è anche appassionato della sua auto. Un'altra cosa molto importante, e noi su automobile.it lo consigliamo sempre, è quello di evitare i pagamenti anticipati o le caparre. Questo è purtroppo un sintomo di frode la maggior parte delle volte, per questo che su automobile.it abbiamo un team che si dedica a contrastare questi annunci falsi, illegali o ingannevoli. Se invece voglio vendere l'auto, conviene venderla, mettere l'annuncio su internet? In quanto tempo mediamente si vende rispetto semplicemente a portare l'auto dal concessionario e metterla sul piazzale? Ecco. Conviene mettere un'auto su internet innanzitutto per la semplicità e per l'ampiezza dell'utenza a cui si rivolge. Mediamente, per quanto riguarda i prezzi, avete riscontrato delle differenze tra le auto che vengono messe in vendita online e quelle invece appunto su piazzale, come dicevamo noi, in concessionario? Guardi, dalla mia esperienza su automobile.it e quindi con alcuni dati del sito possiamo vedere che c'è un differenziale di prezzo rispetto agli autosaloni offline. In media ci aggiriamo, dipende chiaramente dai veicoli, tra i 1.500 e i 2.000 euro. Ci possono essere delle ottime occasioni, sempre da parte magari di alcune concessionarie, per quanto riguarda auto aziendali, semestrali o ritorni dai leasing, quindi dalle grosse compagnie di auto noleggio. Quindi sì, sicuramente l'aspetto del prezzo è un aspetto importante e una campagna, uno studio fatto dalla Ipsos denota che la ricerca del prezzo conveniente è nel 70% dei casi uno dei motivi per cui gli italiani scelgono internet per confrontare gli annunci. Quali auto si cercano di più su internet e quali si vendono di più su internet? Su internet abbiamo una ricerca che sicuramente abbraccia i veicoli anche speciali o quelli, diciamo, dei propri sogni. Internet non è limitante da questo punto di vista, quindi si vanno a cercare anche le belle auto d'epoca o comunque le vetture sportive. Per quanto riguarda le vendite, internet riflette sicuramente l'andamento offline. Quindi in Italia il gruppo Fiat, seguito dalle case automobilistiche come Volkswagen, sono sicuramente rappresentano le vendite maggiori anche su internet. Allora, grazie a Riccardo Mittiga, country manager di automobile.it, e buon lavoro e a presto, buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. E allora siamo arrivati alla fine del nostro viaggio settimanale, grazie a Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo che sul sito www.radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni ed approfondire gli argomenti che tocchiamo ogni settimana. Se avete voglia di scriverci, fatelo all'indirizzo stradeemotori@radio24.it. Vi lascio agli approfondimenti del pomeriggio sportivo con Carlo Genta subito dopo le notizie delle 17. Noi ci ritroviamo settimana prossima.